Italia in controluce. La seconda edizione di Italia in controluce, il programma di Radio 24 che va in onda due volte al giorno alle 6.30 in pillola e in questa versione più lunga che manda in onda tutti i giorni reportage, inchieste, approfondimenti, interviste sui temi di stretta attualità, di cronaca sulla società italiana. La chiamano la discarica della discordia, si trova in Lomellina, in provincia di Pavia, dove sta crescendo l'apprensione e la mobilitazione dei cittadini e della popolazione perché sta per essere realizzata una discarica di amianto. Questa è la seconda e ultima parte della nostra inchiesta di Maria Luisa Pezzali. Una miniera d'oro, così il professor Alessandro Gualtieri, ordinario di mineralogia all'Università di Modena e Reggio Emilia, definisce le discariche di cemento amianto. Tecnologia zero e tutto guadagno. Il genere di smaltimento dei milioni di metri cubi di Eternit ancora presenti sul territorio italiano che il nostro paese ha deciso di prediligere. Una necessità, visto l'obbligo di legge che impone la bonifica entro il 2015, ma anche un grande affare sul quale bisogna vigilare. E motivo di forte preoccupazione per i territori in cui queste discariche stanno sorgendo. Uno di questi è Ferrera Erbognone, provincia di Pavia, piccolo centro della Lomellina, dove i cittadini sono sul piede di guerra contro l'ipotesi di realizzazione di un impianto da 750.000 metri cubi di capienza. Quali profili di rischio presenta una discarica di rifiuti contenenti amianto? È quello che abbiamo chiesto al professor Gualtieri. Ci possono essere rischi a brevissimo termine al momento della dismissione di fibre, diciamo di lastre di cemento amianto in discarica, quindi al momento del conferimento, perché i pacchi si possono rompere e purtroppo possono rilasciare fibre nell'ambiente. Poi purtroppo il rischio secondo me maggiore è a medio-lungo termine, diciamo dopo 10-15 anni, quando la discarica è stata in pratica abbandonata. Perché? Perché purtroppo i pacchi in discarica tendono ad alterarsi a seguito del percolamento e possono concentrare fibre nel percolato. Se il percolato non viene captato, cioè non viene rimosso e bonificato, purtroppo ritroviamo le fibre di nuovo all'esterno della discarica nell'ambiente, nel sistema idrologico superficiale. Questo secondo me è il problema più grave che non viene quasi mai valutato. La richiesta per la discarica è stata presentata nel 2010 in Regione Lombardia dalla società ACTA, una SRL che fa capo al proprietario di quei terreni, Giovanni Allevi, nulla a che vedere con il musicista. La Regione ha chiesto all'ACTA di integrare il progetto con altre informazioni. Una volta consegnate verrà stabilita la data della conferenza dei servizi, probabilmente tra luglio e agosto prossimi. In quella sede ci saranno i risultati della valutazione di impatto ambientale. Una discarica ci serve, qualcuno se la dovrà pur prendere, ci dice Daniele Belotti, assessore regionale al territorio. Noi dobbiamo, non è che vogliamo, perché abbiamo una scadenza anche di legge che prevede amianto zero entro la fine del 2015 in Lombardia. Traguardo difficilissimo da raggiungere, ma ancora più difficile da raggiungere se non si realizzano degli impianti dove poter smaltire l'amianto viene rimosso dai tetti e non solo dai tetti. Il problema è che ovunque viene localizzata, viene ipotizzato un impianto, nascono le proteste dei cittadini, comprensibili finché si vuole, ma noi dobbiamo anche fare un ragionamento superiore, noi dobbiamo tutelare l'interesse di tutti i cittadini e purtroppo qualcuno un impianto se lo dovrà pur subire da qualche parte. Poi le valutazioni sulla discarica di Ferrera sono al vaglio della Commissione di Valutazione Impatto Ambientale. Il sito come è stato individuato? I siti vengono individuati dai richiedenti, che possono essere società private o pubbliche. Non è la regione che può individuare un sito, un'area dove localizzare gli impianti. Perché l'amianto, a differenza dei rifiuti solidi urbani, è un rifiuto speciale, quindi è soggetto a libero mercato. Non è possibile pianificarne gli impianti. Al momento attuale la normativa è questa. Se noi non autorizziamo degli impianti regolamentari e controllati, favoriamo chi vuol fare il traffico illecito dei rifiuti, perché gioco forte, se non ci sono impianti, si dà spazio a chi vuol fare o guadagni facili oppure peggio ancora con società legate alla criminalità organizzata. Noi vogliamo realizzare degli impianti pubblici in modo da poter controllare meglio l'impianto, evitare speculazioni, in modo da poter decidere, essendo proprietari, quale amianto ricevere, quindi limitarci o all'amianto conferito dalla provincia, il territorio provinciale o regionale, e soprattutto anche quello di poter destinare gli utili di questi impianti alla bonifica di altre situazioni preoccupanti per l'amianto. In più, come Regione Lombardia vogliamo fare il primo impianto in Europa di inertizzazione. Noi vogliamo superare il concetto della discarica, che è un sistema vecchio come concezione, che prevede consumo di suolo e non risolve definitivamente il problema, ma diciamo che lo rimanda, e su questo c'è un tavolo aperto con le realtà di Cremona. Le richieste di discariche sono state fatte legittimamente da delle società, in alcuni casi pubblico-private, in alcuni casi solo private. Noi non possiamo prendere una domanda presentata da una società e non valutarla dal punto di vista della valutazione di impatto ambientale con una procedura esclusivamente amministrativa, perché altrimenti incorriamo in un reato che è abuso d'atti d'ufficio se abusiamo del nostro potere, oppure di omissione d'atti d'ufficio se prendiamo la domanda e la imboschiamo da qualche parte. Il progetto di Ferrera Erbognone è un progetto privato avallato però dal CLIR, il consorzio Lomellino Incenerimento Rifiuti, di cui abbiamo parlato nella prima parte di questa inchiesta. Del CLIR fanno parte 41 sindaci della Lomellina che hanno appoggiato la discarica a maggioranza. Il CLIR si è riservato di entrare in acta la società che ha presentato il progetto dopo il pronunciamento della regione. A garanzia dei controlli sulla gestione, ci ha detto Marco Rivolta, direttore generale del CLIR. Per la nostra presenza in società abbiamo chiesto e ottenuto dai soci privati, attraverso le bozze di patti parasociali che qualora si entrasse in società verrebbero resi esecutivi, ci dovrà essere proprio una commissione di controllo permanente che appunto valuti e verifichi la correttezza e la trasparenza e la professionalità nella gestione di questo impianto. Anche un monitoraggio ambientale ancora più stringente e rigido rispetto a quanto chiederà Regione Lombardia nell'eventuale prescrizione autorizzativa. Ma chi garantirà sulla perfetta messa in opera dell'impianto e sulla sua sicurezza? Ecco che cosa ci ha risposto l'assessore Belotti. Questo è un tema che mi avesse fatto sta domanda prima di novembre, le dicevo tranquillamente che ci sono gli organi preposti. Il caso di Cappella Cantone, triste caso di Cappella Cantone, ci ha fatto perdere un sacco di credibilità anche da questo punto di vista. Quindi noi abbiamo adottato una serie di norme restrittive, ancora più restrittive, riguardo ai controlli e al rilascio delle valutazioni di impatto ambientale proprio alla luce di quanto è successo a Cappella Cantone. È ovvio che ci sono tutta una serie di norme di organi preposti, vedi ARL e ARPA. Se poi qualcuno si fa corrompere, vabbè, questo non c'è norma che tenga di fronte alla corruzione. Anche per Cappella Cantone si tratta di una discarica di cemento amianto. Ora la cava è sotto sequestro perché oggetto dell'indagine che ha portato in carcere il vicepresidente del Consiglio regionale lombardo, Franco Nicoli Cristiani, con l'accusa di traffico illecito di rifiuti e corruzione. Ci vuole una pianificazione seria, non affidata all'iniziativa e agli interessi privati, sostiene Legambiente Lombardia. Gigi Vecchi. Riteniamo che questa localizzazione non sia idonea. Crediamo che la Regione e la Lombardia debbano fare uno sforzo preciso di censire l'amianto presente, e poi ci vuole una pianificazione molto semplice. Ogni provincia deve smaltire l'amianto presente nel proprio territorio. Sempre in provincia di Pavia, a Broni, è utile ricordarlo, c'è la Fibronit, fabbrica di cemento amianto la cui triste storia di vittime per mesotelioma, 700 secondo le stime più prudenti, ricorda quella della Eternit di Casale Monferrato. Per la Fibronit, però, giustizia ancora non c'è stata. Ecco il timore numero uno di Marco Basati, portavoce di uno dei comitati antidiscarica. Siamo terrorizzati dal fatto che si replichi il caso di Casale nelle nostre parti, non più nella produzione dell'amianto, ma con lo smaltimento. Era Italia in controluce, torniamo domani alle 6.30 su Radio 24 a raccontarvi nuove storie.